Tempo di sport di Gigi Garanzini. Buon pomeriggio. Con la vittoria della Fiorentina, Bologna torna ad allargarsi la lotta per il quarto posto e magari anche qualcosina più su. In fondo, se il Milan ha diritto, ha pieno diritto a pensare alla rimonta sull'Inter che dista 6 punti, anche la Fiorentina ne ha 6 a sua volta di distacco dal Milan, e cioè dal secondo posto, e in mezzo ci sono Juventus e Genoa, e un punto sotto la Fiorentina c'è pur sempre la Roma, sicché alla terza giornata di ritorno mi sembra che tutte queste questioni siano ancora aperte e ciascuno abbia il diritto di ambire a posizioni magari oggi impensabili. Di tutto questo e altro ancora, oggi si parla col maestro, e cioè con Adalberto Bortolotti. Bentornato. Grazie Gigi, e buongiorno a tutti i tuoi. So che maestro ti fa un po' sogghignare, però sì. Dal punto di vista mio e della... Lo considero un tributo all'età veneranda. All'età veneranda, ma da parte degli ascoltatori non è così, e mio tanto meno. Ascolta Adalberto, io direi che io partirei dal rosso-blu che sì. Ieri è stato, ieri poteva completare il trittico, no? Nel senso del Bologna, invece è stata molto brava la Fiorentina e cose. Io dico che Genoa e Cagliari sono le due grandi rivelazioni dell'anno, non solo perché hanno fatto un sacco di punti, molto più di quelli di cui erano accreditati, ma perché giocano un signor calcio. Ora, dato che giocano un calcio abbastanza diverso, mi piacerebbe per l'appunto che il maestro, con l'aiuto, con la collaborazione dell'allievo, ci raccontasse come e con quali suggestioni gioca il Genoa, soprattutto il Genoa di Marassi, e come invece gioca il Cagliari, soprattutto il Cagliari che va in visita, no, a campi di enorme prestigio e ne esce vincendo o pareggiando, ma meritando di vincere come a San Siro. Sì, tu hai giustamente sottolineato la differenza, perché i lati in comune sono abbastanza ovvi. Sia Gasperini sia Allegri praticano un calcio di iniziativa, quindi privo di qualsiasi reverenza, che mira più a imporre il gioco che a contrarlo, diciamo. Però la differenza è che il Genoa è soprattutto fortissimo nel proprio fortino di Marassi, mentre il Cagliari si esprime anche in trasferta ad alto livello. Io ho visto Juventus-Cagliari e mi dispiace una sola cosa, che ovviamente la critica ha sottolineato i demeriti, per me molto relativi, della Juventus, perché quella è la sconfitta della Juve che fa notizia più che la vittoria del Cagliari, e ha trascurato invece i meriti, secondo me, assai preponderanti del Cagliari. Cioè, per me quella sera il Cagliari ha fatto una partita grandiosa e la Juventus aveva fatto già molto a risalire dallo 0-1 al 2-1. Poi la preparazione fisica unita a una padronanza di palleggio, per me impensabile in certi giocatori, ha fatto le fortune del Cagliari. Insomma, io ho visto un Biondini, un Conti, sono giocatori di lunga milizia ormai e non subito ai vertici, anzi, che hanno fatto tanta gavetta, adesso si esprimono come campioni, onestamente. Con in più una freschezza, cioè Gedà ha 30 anni, e, sì, insomma, Conti ne ha 30, ma Kosua, se non ne ha 30, ne ha 29. Ma con questa formula, con l'entusiasmo ritrovato, forse col lavoro di col lavoro di Ballardini l'altro anno, poi rinfrescato da Allegri, ma hanno una freschezza, una vivacità e una sicurezza nel fare quello che tu chiami, hai chiamato all'inizio con un'espressione magnifica, il calcio di iniziativa. Hanno qualcosa che ti strappa l'applauso, comunque ti strappa il compiacimento. Sì, se noi torniamo indietro così a squadre che ci hanno entusiasmato perché inattese protagonista, dico il Foggia di Zeman, per dire, era una squadra giovane, di giovani talenti che poi sono diventati campioni e alcuni fuori classe. Questo Cagliari è in gran parte di giocatori riciclati, cioè certo, comunque rimasti lì ma ormai giunti in età matura e che hanno fatto un impensabile balzo di qualità. Ecco, forse questa è una delle differenze, nel senso che il Genoa ha individualità magari migliori, ha comunque una stella, Milito, mentre il Cagliari spalma di più, ecco, le sue individualità. Il Genoa è anche di vertice. È anche costato un sacco di soldi in più. Ed il Genoa è costato proprio per questo un sacco di soldi in più. Con tutto questo, un Genoa al quarto posto, onestamente credo che non l'avrebbe pronosticato nessuno, quasi, se non qualche super tifoso, sì. Giustamente entusiasta fan di colori rosso-blu genoani. E gioca a sua volta benissimo, perché anche il Genoa esprime dei momenti di tambureggianti, ecco, quasi irresistibili. Mi ha colpito una dichiarazione di Ballardini, che proprio è stato l'ultima vittima del Genoa, che gli hanno detto, forse aspettando una replica, Gasperini ha detto che nel secondo tempo c'è stato solo il Genoa, e lui ha risposto: Gasperini si sbaglia, anche nel primo tempo c'è stato solo il Genoa. E in effetti mettere sotto sul piano del gioco in Palermo, che perde, per carità, ma raramente si arrende e appare così impotente di fronte all'avversario, è una grande impresa, insomma. Certo, un'altra cosa che hai detto all'inizio, che mi è molto piaciuta e che io ho provato invano ieri ad opporre agli juventini furibondi, era che ci sono occasioni in cui bisognerebbe essere così bravi e così sportivi da levarsi il cappello di fronte agli altri e dire che sono stati gli altri più bravi per una volta rispetto... Io non ho trovato nulla da rimproverare alla Juventus. Se devo dire, non si prendono due gol in contropiede in casa, ma si prendono quando si vuole vincere, quando si deve vincere una partita, si è costretti a vincere. Probabilmente Ranieri, se non avesse avuto queste motivazioni di classifica, poiché è un ottimo, per me eccellente uomo di calcio, si sarebbe reso conto che il pareggio era già un bel risultato contro, certo, quel Cagliari, e l'avrebbe difeso, ma era obbligato a vincere, sta inseguendo l'Inter, non può difendere il 2-2 col Cagliari. Ineccepibile, non solo. Poi torniamo al Genoa, però per completare questa parentesi, a me pare che se c'è una rissona, dico una arma perché è sempre un'espressione da evitare, ma un'eccellente risorsa su cui quest'anno la Juve ha costruito buona parte delle sue fortune, è la difesa alta, è il fuorigioco, è il rischio, perché supplisce collettivamente a qualche deficienza dei singoli, no? Se parliamo di difensori. Ora, è proprio per questo che bisogna cavarsi il cappello di fronte al Cagliari, perché li ha bucati con una disinvoltura e una velocità impressionanti. Ma io penso a Gedà, che è un giocatore che ha giocato a Rimini in gran parte ed era bravo, per carità, in Serie B, e, ma lì adesso è un giocatore di primissimo livello, sì. Sa fare tutto, sa fare gol, e poi ha questa abilità di evitare appunto il fuorigioco con queste incursioni rapidissime, con questo senso del tempo, ma così un po' tutti sono vere. E se Acquafresca, che era un po' l'eroe di questo momento, entra Matri, fa il gol decisivo, insomma tutti sono bravi. Non so, questo devo dire, bravissimo è stato Cellino, perché 0 su 5 nelle prime 5 partite a tenere un allenatore chiamandosi lui Cellino, sì, deve essergli costato tantissimo, sì, però lui, l'ha è vero. Accettata, insomma. Lui ha un primato personale di un allenatore cacciato dopo una giornata, quindi sa, magari pareggiata. Esatto. Dopo 5 sconfitte consecutive, però questa volta ha azzeccato in piedi. Era prova del 9. E senza questo avvio così, il Cagliari sarebbe appunto in lotta col Genoa e con le altre per un posto in Champions. Sembra fantacalcio, ma è così. E d'altra parte questa è un'altra conferma che soprattutto con gli allenatori giovani un minimo di pazienza ci vuole, e bisogna lasciarli lavorare per un po'. Tornando al Genoa, dicevo che se il Cagliari è una squadra di guastatori difficilmente catalogabile come modulo e come paragoni, il Genoa a me personalmente ricorda, anche per la suggestione di Marassi e per questo stadio all'inglese storico addirittura, perché risale ai fondatori che sono inglesi, che sono britannici, il fondatore del nostro calcio, a me ricorda nei momenti di grande furore il Liverpool piuttosto che il Manchester. No, non voglio fare paragoni eccessivi, perché poi è chiaro che queste squadre alla fine magari non avranno questo piazzamento, ma nei momenti migliori di adesso sembra di essere ad Anfield o qualcosa del genere. C'è questo trascinante assalto, no? Questo calcio battente che hanno gli inglesi, o almeno avevano, adesso le scuole meno, sono sì, è vero, è vero. Poi ci sono squadre inglesi con un calciatore inglese, sì e no, e allora magari hanno giochi diversi, però come noi eravamo abituati a interpretare il calcio inglese, questo continuo assalto, questa grande condizione, questo ritmo appunto anche scandito dal pubblico, effettivamente questa suggestione c'è. È vero, e il calcio del Genoa rispetto a quello del Cagliari è più fisico, è più aggressivo, è più in certi momenti anche un, non dico troppo, ma insomma è un po' al limite, no? Almeno a me dà quell'impressione, nel senso che complessivamente è meno gradevole dal punto di vista estetico rispetto a quello del Cagliari, però è di un'efficacia tremenda. Sì, il pressing è un pochino effettivamente un pochino esasperato a volte, ovviamente fa parte di questo gioco, ma il Cagliari è proprio bello dal punto di vista estetico, come lo è in certi momenti l'Udinese. Insomma, l'Udinese ha dei momenti, mi è spiaciuto per quel lungo blackout che sì, l'ha tolta da certe ambizioni, però ha dei momenti in cui esprime un gioco d'attacco quasi così paradigmatico, direi, come si dovrebbe attaccare con questi con queste punte interscambiabili, tutte molto brave, tutte a tirare, a concludere, a passare, insomma. Anche l'Udinese, ma questo è un buon campionato per me dal punto di vista tecnico. Una delle squadre che gioca meno bene è l'Inter, che è in testa largamente e giustamente, però in assoluto la qualità media è molto buona. Parliamo di pentimenti adesso, i capitoli sono due. Allora, prendiamo un pentimento tecnico abbastanza clamoroso a parer mio, che è quello che riguarda Quaresma. Domenica fallisce l'ennesima prova di appello che gli viene data da Mourinho, e nel giro di nemmeno 24 ore scatta la cessione o il prestito, chiamiamolo come vogliamo, al Chelsea. È vero che il calcio di oggi è molto più frenetico perché per l'appunto c'è questo mercato aperto, non dico ininterrotto ma quasi. Però insomma, da un punto di vista proprio della gestione è forte questa scelta, perché un giocatore che era stato valutato, chi dice 20, chi dice 25, chi dice addirittura 30 milioni di euro, che viene sbolognato a fine gennaio, questo sa quasi, come dire, l'ingaggio di Quaresma era stato una cosa in più, onestamente. Mourinho era venuto qui per fare il suo tridente classico, due ali e un centravanti, ha provato, ma Figo non lo assicurava più tanto sul piano della continuità fisica. Mancini è un attaccante molto speciale, per stare in argomento con Mourinho, e allora ha voluto un suo uomo di fiducia, del quale poi non c'era assolutamente bisogno, facendo spendere dei soldi in più. Poi se n'è saltato del tutto il tridente, lui gioca col doppio centravanti, e quindi Quaresma era diventato assolutamente superfluo per me, oltre al fatto di avere un pubblico, non dico prevenuto, perché l'ostilità del pubblico era tecnicamente giustificata da prestazioni insufficienti, quindi probabilmente ci si è reso conto che era difficile aspettare ancora, insomma. Questo sì, però rimane il fatto che, non so, Fabio Monti stamattina sul Corriere, sempre molto addentro alle cose dell'Inter, e oltretutto con una memoria di ferro, ha ricostruito tre frasi di Mourinho della tarda estate e dell'autunno che mi paiono significative. Te le leggo. Il 30 agosto disse: rispetto presidente società, loro sanno che la mia opinione non è cambiata e che c'è bisogno di un giocatore come Quaresma. Lavorerò con la squadra che ho, non c'era ancora, stava convincendoli, è una bella squadra, ma mi manca un'ala più veloce, con più creatività, che può giocare uno contro uno. La mia scelta dal primo giorno è stata Quaresma. Questo il 30 agosto. Il 12 settembre dice: se io fossi un attaccante vorrei in squadra proprio uno come lui, perché fa assist fantastici. Il 29 ottobre dice: io conosco Quaresma da 4-5 anni, sono sicuro di quello che può fare e lo farà. Il 31, anzi 2 febbraio, sappiamo come si è conclusa l'avventura. È un po' crudele ogni tanto andare a ripescare le collezioni dei giornali, però però diciamo che può servire. I grandi uomini e quindi anche i grandi allenatori possono permettersi il lusso dell'incoerenza, se lo facessimo noi comuni mortali verremmo inchiodati alle nostre responsabilità. Ma io il caso Quaresma mi ricordava, provavo stamattina leggendo di queste cifre, a pensare a un fallimento altrettanto clamoroso di un giocatore molto pagato, molto referenziato. E così guardavo indietro, non è facile, mi è venuto in mente Jan Rush, il gallese della sì. Juventus, no? Sì. Bomber della Coppa dei Campioni che anni 80, fine anni 80 mi pare, sì. Però poi ho visto che Rush aveva fatto 7 gol in 28 partite, sì, poca roba rispetto alle attese, sembrava il nuovo Charles, comunque qualcosa aveva combinato. Socrates alla Fiorentina sicuramente è stata una delusione, però ha fatto 6 gol in 25 partite. Mi ricordo quando il Milan rimandò via subito Griffs, aveva fatto più gol che partite. Quindi Quaresma è quasi, cioè io mi ricordo Borghi, che però è stata una meteora mai realizzatasi, per parlare di una delusione così grande, o Blissett forse, ecco, non lo so, ecco, certo. cercavo di tornare indietro, perché altri brasiliani tipo Edmundo, Renato, ma lì per questioni puramente caratteriali, certo. Poi si era visto che certo. Sapevano giocare. Quaresma proprio non ha mostrato nulla. E quel poco che ha mostrato se ne poteva liberamente fare a meno. Fumata nera in Lega, contro pronostico non c'è stata l'attesa rielezione di Mattarresa presidente di Lega, l'assemblea è stata rinviata l'assemblea elettiva è stata rinviata a un'altra data, cioè al 6 marzo, si sono presi un po' di tempo, ed è in corso in questo momento un'assemblea informale di A. L'agenzia successiva dice che Buffon è appiedato di nuovo, stavolta dalla febbre, non giocherà domani sera in Coppa Italia contro il Napoli, non è stato convocato, così come Marchisio ha faticato, mentre rientrerà dal primo minuto probabilmente Trezeguet ed è stato convocato anche Camoranesi. Tra i tanti messaggi ne scelgo uno, firmato Gabriele da Torino, che mi dà un pochino l'orticaria, dice: piano con i complimenti, Gasperini e Allegri saranno grandi quando faranno bene in grandi squadre. Come se ad Alberto, come se dirigere bene, al meglio, una piccola azienda fosse meno meritorio che dirigere una multinazionale o un macchinone del parastato, no? Ma sì, che dici? Questo è un luogo comune. Poi alla grande squadra bisogna arrivarci. Allegri è addirittura un debuttante, insomma, penso bisognerebbe che le grandi squadre avessero anche coraggio ogni tanto. L'Inter con Mancini non si è poi in fondo tanto pentita di aver certo. Fatto una scelta coraggiosa. Cioè, io credo che quando si insegna calcio così, perché c'è modo e modo di mettersi in luce, uno può fare anche salvezze miracolose, però giocando un anticalcio, ecco, quando si insegna calcio si sa insegnare a tutti, ecco. Se hai interpreti migliori probabilmente viene un prodotto ancora migliore. Gran bella distinzione questa. Un altro paio di messaggi, uno Francesco Roma, mi piace molto questo, dice: finalmente Daniele Conti non è più il figlio di Bruno, ma è solo Daniele Conti, un grande giocatore, lo sottoscrive in pieno. Enzo scrive: un altro allenatore di cui sentirà parlare per il suo calcio irriverente, bellissima espressione, è certamente Conte, che ha riportato a Bari finalmente sì. Del buon calcio dopo Fascetti. Bella espressione, calcio irriverente. No, bella espressione, io purtroppo, e penso anche tu, abbiamo meno occasioni di vederlo, certo, il Bari di Conti, di Conte, però che faccia un eccellente lavoro, anzitutto vince in trasferta in un campionato dove non è mai facile, e poi dove ci sono autentiche corazzate, perché Parma, Livorno, Parma per esempio ha speso più della metà delle squadre di Serie A quest'anno, certo. Livorno, Empoli stesso, retrocesso, cioè, ci sono grandi squadre in testa, a tutti c'è il Bari, deve essere molto bravo. Seconda ammissione di colpa, l'ha firmata stamane Mario Sconcerti sulla prima pagina del Corriere della Sera, sulla prima pagina, e poi ovviamente il testo gira all'interno. Credo sia giusto riconoscere, ha scritto Mario, che sull'utilità di David Beckham al Milan ho commesso qualche errore di valutazione. Sono stato in buona e abbondante compagnia, ma essendomi questo sempre interessato poco, è giusto che ora alzi la manina da solo. continuo a non ritenere gradevole l'operazione di affitto. Sono tra quelli che amano per il calcio una liturgia esatta e consolidata, ma sarebbe sciocco, parlando di calcio, non ammettere l'importanza di Beckham in questo angolo di Milan. Beh, insomma, diciamo più o meno con le stesse parole, o comunque con gli stessi concetti, mi ero già esibito io sin dalla scorsa settimana, mi sono esibito, insomma, un po' a tutti, credo, tocchi. No, tranquillamente, perché ti aggiungi tranquillamente. È stata un'operazione di pura facciata, insomma. Esatto. L'ultima figurina per completare l'album. e invece quest'uomo che oggettivamente, perché noi vecchi swiveur, no, si sarebbe detto un tempo, abbiamo commesso questo errore di valutazione, nel breve, poi magari lo vediamo sul lungo e sul corto. Questo volevo aggiungere. Anche però comunque, per adesso stiamo parlando di molto breve. Molto breve, però per adesso è giusto farlo. Fuori discussione. Io dico la mia e vorrei sentire la tua. La mia è che questo giocatore aveva avuto in un utilizzo quale quello che intendeva fare il Milan, che poi in effetti è stato confermato, cioè quello, diciamo, del centrocampista esterno, da ala d'appoggio o da uomo del traffico, aveva avuto 5 anni fa una grande chance al Real Madrid, niente meno, con grandi campioni intorno e in un momento di squadra in ascesa, e non aveva colto bene questa occasione, sicché la sua carriera poi si era autoconfinata per soldi, ma anche per libera scelta, a Los Angeles. Da lì pensare che ci potesse essere un'impennata solo perché serviva a capello testare la credibilità in campo di Beckham in prospettiva inglese, era sinceramente un esercizio un po' difficilino. Forse tutti insieme, sai cosa abbiamo sottovalutato? Abbiamo sottovalutato l'occhio di Capello. Se Capello ha suggerito questa operazione, forse, dico io. È un errore imperdonabile, sottovalutare l'occhio di Capello. Forse sì. In effetti è molto giusto quello. Secondo me c'è un fatto: Beckham sta andando benissimo nel Milan perché gioca con l'umiltà assoluta di un gregario, cioè gioca sulla fascia, fa poche cose e tutto benissimo, e mentre il Beckham arrivato al Real Madrid come una stella non avrebbe mai fatto il gregario degli altri, quindi andava a cercare gloria in mezzo, mettendosi in concorrenza con gli altri grandi campioni, doveva essere una stella. Qui mi ha colpito proprio la grande disciplina tattica, lui fa esattamente quello che deve fare senza concedere nulla alla gloria personale, e così la trova poi. Probabilmente, sai, al Real Madrid è arrivato il giocatore osannato, qui è arrivato un giocatore del Los Angeles, cioè onestamente di uno ormai ai margini del calcio che conta, ecco. Certo. Gualtiero inferisce scrivendo: salutiamo Quaresma, che non era una trivella ma al massimo un cacciavite. Mentre invece c'è un tuo lettore che si chiama Francesco da Milano che cita addirittura tra virgolette una tua frase e dice: diamo invece atto a Bortolotti che, commentando l'arrivo di Beckham, scrisse: il problema non è se Beckham arriva ed è un bidone, il problema è se gioca bene e gli tocca andare via a marzo. E anche questa mi sembra un'altra riflessione da fare. Così, perché io criticavo non tanto Rio De Ven quanto questa operazione che mi sembrava appunto un trucco un po', nel senso che se questo, come sta succedendo, e lì non ci aveva pensato quasi nessuno, si rivela per parole di Ancelotti indispensabile, dopo diventa dura farne a meno, perché sul più bello lo perdi se il contratto verrà rispettato. Poi, per carità, le vie del calcio sono infinite, forse se lo stesso Beckham si sta divertendo perché è tornato a giocare a pallone, si impunta, io credo che una soluzione si possa trovare. Però se la Sierra il Milan adesso, non credevo colmasse qualche lacuna, però la apre andando via, ecco, questo è l'assurdo. Con te come sempre. Il Sun, che non è la Bibbia, però riprende qualcosa in questo caso che arriva da Milano, parla di un'offerta di 15 milioni del Milan per trattenere Beckham e dello stesso ingaggio circa di base, cioè 5 milioni di euro l'anno, che gli garantiscono i Galaxy. Quello che il Milan non può garantire sono le cifre spropositate che Beckham guadagna stando negli Stati Uniti con tutti gli altri contratti collaterali. E sarà su questo che da qui al 9 marzo... Se il problema è lì e lui è disposto a rinunciarvi per divertirsi un po', tanto diventa un problema di Kakà. Secondo me... Io rispetto e ammiro, ma mi sembra una scelta abbastanza facile, cioè, perché non è, la differenza non era fra i 15 milioni e un impiego in banca, ma fra 15 milioni e 10 con qualche extra, insomma. Sono dubbi. Sicilia con molta tranquillità a quel punto. Io penso che Beckham in questo momento, ma lo si vede anche in campo, si diverta a tal punto che è tornato a divertirsi. Certo, se dipendesse da lui ci starebbe come. Bisognerebbe che fosse scapolo, secondo me. E non, questo è sempre, credo che sia sempre. Ma anche il fatto che la moglie è là coi figli lo rende molto allegro. Certo. Vabbè, questo apre un altro scenario. Grazie, Alberto. Ma sai, poi sul campo si riflette tutto, mica solo cose tecniche, volte anche un morale alto. Morale alto, il piacere di vivere e di giocare come si deve, esatto. Magari senza, appunto, senza schiavitù, no? detto in un certo modo. Ad Alberto un abbraccio, come sempre. Anche a te, a risentirci. Grazie per questo lungo collegamento. La prima medaglia d'oro ai mondiali di Val d'Isère è andata a un'americana nel super gigante Liz Yvonne. Medaglia d'argento a una francese, la Arvier, terza un'austriaca, prima delle italiane la Fanchini al nono posto. Ovviamente è slittata domani la rubrica di calcio internazionale con Fabio Tavelli per far spazio e onorare come si meritavano in questo momento, perché poi insomma queste sono glorie magari abbastanza caduche, il Genoa e il Cagliari, questo campionato che si è tinto di rosso-blu. Un bel messaggio firmato Ale da Venezia, diciamolo pure, a proposito di Beckham, che al Real Beckham non aveva avuto un allenatore come Ancelotti che sapesse impiegarlo nel miglior modo possibile. Io non ricordo chi fosse allora l'allenatore del Real, ma certamente se c'è un conoscitore del calcio, degli equilibri e dei rapporti in grado di inserire chiunque in un gioco collaudato, questo si chiama, dal mio punto di vista, si chiama certamente Carlo Ancelotti. Poi ancora Iroldi arbitrerà domani Juventus-Napoli di Coppa Italia, vi ho già detto, con Buffon assente per febbre e col rientro probabile di Trezeguet. Sentiamo Carlo da Napoli, buongiorno. Buongiorno, anzitutto grazie per la disponibilità. Prego. Volevo, ma mi piace condividere con lei quanto diceva relativamente al calcio, a questi ultimi allenatori, che sono Allegri e l'allenatore del Genoa, che stanno dando un impulso culturale nuovo. Cioè, in fondo è come se stessimo cambiando mentalità, il calcio italiano praticamente sta acquisendo anche una cultura diversa. E io parlavo di inglesizzazione e mi rallegro che lo stesso termine l'abbia usato anche lei. E in fondo praticamente c'è una nuova, una vera e piccola rivoluzione culturale che è in crescendo, e la troveremo via via sempre di più nei prossimi tempi. Io penso praticamente che stiamo vivendo una fase di reale trasformazione, in cui sarà sempre valido il carisma dell'allenatore, ma saranno sempre più corretti e giusti praticamente quelli che sono gli insegnamenti di un calcio più dinamico e meno contratto. D'altronde però questo fatto, non so se lei condivide, signor Garanzini, dipende anche da un rendere un pochino più oggettivo il gioco del calcio, cioè disporre una minore importanza dell'arbitro relativamente a diciamo un'oggettivazione del tempo di gioco, per esempio, piccole regole fondamentali che riducono anche la tensione sugli spalti, eccetera. Ma cioè, non accatasterei poi troppi argomenti e non mi illuderei nemmeno che questa neo nouvelle vague, se vogliamo, faccia poi davvero, davvero tendenza. Io mi accontenterei di notare che la sta facendo in questo momento, che la sta facendo con una certa continuità, perché ormai siamo arrivati, abbiamo passato le 20 giornate di campionato, che non sono gli unici segnali positivi, perché altri tecnici stanno muovendo, stanno insegnando alle loro squadre, anche a chi sta lottando per non retrocedere, un calcio che comunque cerca nei limiti del possibile di divertire. Ci sono degli sprazzi, per esempio domenica la prima ora di partita il Torino l'ha giocata bene sul campo dell'Inter. Il messaggio vero, che forse un po' alla volta è passato, e di questo dobbiamo ringraziare anche i grandi, gli antesignani degli anni Ottanta, a cominciare da Sacchi se parliamo di calcio italiano, è che non necessariamente paga l'atteggiamento difensivo rinunciatario per salvare la ghirba contro squadre superiori o nettamente superiori. Si può anche provare a essere propositivi, a sorprendere la squadra più forte con un atteggiamento spregiudicato. In questo il Cagliari nella fase attuale è maestro. Da Pistoia ha chiamato Marco, buongiorno. Sì, buongiorno. Dica. Bene o male avete detto più o meno le cose che volevo dire anch'io. Le considerazioni da fare è che alla fine forse non è un caso, no? Che proprio sia il tecnico del Cagliari che il tecnico del Genova, e vorrei dire anche il tecnico del Siena, in qualche maniera insomma hanno portato un po' una ventata nuova, hanno avuto anche un maestro importante che è Galeone. Sì. E che insomma per la prima volta forse si vede anche squadre di seconda fascia o addirittura terza fascia, dove si va a giocare un calcio che non è più un calcio come una volta si diceva da scarpone, no? Butta via la palla, ferma l'attaccante. Certo. Ma propositivo. No, io l'amico napoletano, prima facevo soltanto notare che non è inedito questo, perché certo. Io ho fatto un riferimento andando molto indietro, ma se pensiamo al 2000, al calcio di Del Neri al Chievo, beh, quello era un esempio ancora più eclatante a parer mio, non solo per la qualità, ma per il fatto che il Chievo, riportiamocelo allora, era una squadra di quartiere che debuttava in Serie A e che dava la paga a tante squadre, tant'è vero che a un certo punto arrivò a essere quasi in testa al campionato. Insomma, era ancora di più, no? Da quel punto di vista del Cagliari di oggi. Poi io credo che il Cagliari di oggi giochi meglio ancora, forse. Ah, poi diciamo che il Cagliari insomma ha insegnato a giocare a calcio proprio ai propri giocatori, insomma, no? Mm-hmm. Questa è anche un po' la differenza, certo. Perché tutti quelli, se si va a vedere uno a uno i giocatori del Cagliari, sono veramente, non sono dei fenomeni, insomma, ecco. No, però insomma, dall'inizio delle partite di inizio campionato a ora si vede, sembrano altri giocatori, perché giocano la palla, sanno palleggiare, sanno scambiare, giocano negli spazi, insomma è bello anche vederli giocare, no? Certo. Marco, grazie. Ancora un ascoltatore, poi ripassiamo un pochino la partita di ieri, recupero tra Bologna e Fiorentina. Diego ha chiamato la Genova, buongiorno. Sì, buongiorno. Dica. Innanzitutto volevo ringraziare le parole che state spendendo per il calcio di Gasperini e del Genoa, che da tifoso genuano non mi sembra vero che si possa parlare così bene del Genoa. Il rovescio della medaglia però è un altro, che il Genoa gioca così bene perché attualmente ha una preparazione atletica che è superba, quindi io temo che nel momento in cui la squadra dovesse avere una flessione da un punto di vista atletico, inevitabilmente la sua posizione in classifica ne risentirà. Lo credo anch'io. E quindi probabilmente il suo quarto posto, che ci fa sognare, che non era assolutamente preventivato all'inizio del campionato, non potrà essere mantenuto. Pertanto volevo farle questa domanda. A suo giudizio, il gioco organico espresso da squadre come il Genoa, il Cagliari, anche il Siena, eccetera, quanto è dipendente da una preparazione, dalla preparazione atletica, e quanto invece è proprio frutto di un sistema che può anche alla lunga mantenere dei risultati eccellenti? Grazie. Farla in percentuale è difficile. Che ci sia una base atletica molto importante, insomma una base atletica praticamente decisiva, non c'è dubbio. Io dico ancora più nel caso del Genoa che del Cagliari, perché il Genoa pressa molto, ha un gioco molto aggressivo, molto fisico, e questo secondo me è un dispendio anche superiore. Poi dire insomma, profetare che probabilmente o quasi certamente non potrà tenere questo ritmo fino al 30 di maggio soprattutto in una città come Genova, dove poi gli scirocchi, no, e la primavera è ancora più dolce, insomma, questo credo che sia abbastanza inevitabile, ma non toglie nulla al progetto. Comunque una flessione primaverile ce l'hanno praticamente tutte le squadre, è difficile che ci sia qualcuno che va incalando, che va increscendo, in genere si va incalando, bisogna vedere in che percentuale accadrà. Sentirei da ieri il commento di Prandelli alla vittoria di Bologna. Siamo stati bravi, soprattutto Adrian sul primo gol, e poi dal vantaggio abbiamo costruito la partita. Quando sei in vantaggio 2-0 devi mantenere comunque sempre una certa attenzione, ma anche un certo atteggiamento. Ci siamo abbassati un po' troppo e quindi abbiamo concesso al Bologna di riconquistare palle sulle respinte e siamo andati un po' in difficoltà, però nonostante questo abbiamo comunque sempre cercato il terzo gol. Ci sono tante altre squadre, vedi Napoli, vedi il Palermo, e quindi saremo a lottare fino alla fine per un posto importante. In questo momento sono contento di aver mantenuto quella posizione. Sono arrivati gli squalificati di Serie A, un comunicato che è arrivato la mattina proprio perché c'erano altri impegni di Lega oggi, tutti per una giornata: Giacomazzi del Lecce, Ferronetti e Quagliarella dell'Udinese, Pirlo, Milan e altri due di una stessa squadra, Laziali, Gradu e Siviglia. C'è spazio ancora per un ascoltatore, sì, prima nell'ultimo intervallo. Cristian da Bergamo, buongiorno. Cristian, o abbassa la radio o non se ne parla, buongiorno. Ok, buongiorno. Volevo spezzare una lancia in favore di Quaresma, in quanto secondo me tecnicamente è molto forte. Io per quel che ho visto io tecnicamente è molto forte, però probabilmente manca di fiducia, e in uno stadio come San Siro è venuto viene tutto più difficile. Gli era già, a Quaresma gli era già venuta difficile a Barcellona, perché aveva già toppato notevolmente a Barcellona, nel senso che anche là l'avventura era durata forse qualcosina in più che non a Milano, ma era finita alla stessa maniera. Può anche darsi che Quaresma sia invece un giocatore di buone qualità tecniche, non c'è dubbio, ma di categoria, insomma. E credo che sia buona la seconda, ecco, come ipotesi. Il ripasso di storia, Nicola Filippone. Sembra ieri. 3 febbraio 1972. Inizia a Sapporo, Giappone, l'undicesima edizione dei Giochi Olimpici Invernali, la prima disputata in Asia. Un'Olimpiade all'insegna dell'Unione Sovietica, che dominerà il medagliere con 8 ori, 5 argenti e 3 bronzi. L'Italia chiuderà all'ottavo posto con 2 ori, 2 argenti e 1 bronzo. Protagonista principale della spedizione azzurra è Gustavo Teni, vincitore di 2 medaglie, un oro nel gigante, l'altro lo conquisteranno il Gartner e Pleichner nello slittino, e un argento ottenuto nello slalom speciale, davanti al cugino Rolando Teni, medaglia di bronzo. Questa era la storia. Nicola Filippone si è occupato anche di cronaca oggi con sul 24 minuti, cioè sul pomeridiano gratuito del Sole che è in distribuzione a Roma e a Milano. Il titolo della pagina sportiva è: il calcio sfida la crisi, cifre record a gennaio, e c'è una tabella dei grandi colpi del mercato invernale che non riguardano il calcio italiano, riguardano in particolare i club inglesi che hanno speso più di tutti, quasi 200 milioni di euro in questo mercato di riparazione, anche se l'affare più i due affari più costosi li ha conclusi il Real Madrid, che ha comprato Antelar dall'Ajax per 20 milioni e Diarra dal Portsmouth, sempre Real, per 20 milioni. E poi Robbie Keane da Liverpool al Tottenham, De Jong al Manchester City, Arshavin all'Arsenal, eccetera eccetera, per un totale complessivo di quasi 200 milioni di euro di movimenti nel campionato inglese. Poi c'è una notizia che riguarda Turan. Sentiamo due ascoltatori, perché poi questa mi sembra carina, mi sembra anche molto interessante. Stefano è il primo, provincia di Verona. Buongiorno. Buongiorno dottore, grazie. Dica. Per l'opportunità. Sì. Senta, io volevo semplicemente avere il suo giudizio, che giudico assolutamente preoccupante, sulla vicenda Panucci e la Roma. Soprattutto analizzando la questione in maniera a sé stante, ma poi anche nell'ottica dell'economia dell'attuale reparto arretrato della Roma. Grazie. Ma insomma, l'ottica dell'economia dell'attuale reparto arretrato della Roma, se lei si riferisce al rinvio di Loria, insomma, per quante ne abbia combinate anche Panucci nella sua carriera di amnesie, soprattutto in passato, insomma, è ovvio che Panucci è un'altra cosa. E altrettanto mi pare altrettanto ovvio che se Panucci ha perso l'indirizzo di casa, come l'ha perso per avvelenare Spalletti fino a quel punto, e uno Spalletti tra l'altro che prende un provvedimento di quel genere è certamente condiviso dai maggiorenti della squadra, perché io mi rifiuto di credere che Spalletti metta fuori rosa Panucci e ce lo tenga e accetti la rottura di Panucci senza cercare un mezzo passo, senza che i Totti e i De Rossi ne siano al corrente e condividano. Beh, io credo veramente che Panucci abbia fatto di tutto per farsi mettere fuori. Panucci è un giocatore che in tutta la sua carriera ha sempre avuto un pessimo carattere, e ogni tanto queste cose si pagano. In questo momento si pagano in maniera autolesionista globale, perché da una vicenda del genere è ovvio che ci rimette Panucci e ci rimette la Roma. Mi sembra inevitabile questo. Francesco da Treviso, buongiorno. Buongiorno. Dica. Volevo intervenire su Beckham. Io ho trovato molto ingeneroso il trattamento riservato a Beckham, perché innanzitutto è sempre stato un giocatore in Inghilterra, ha sempre giocato in grandi squadre, e ricordo anche Eriksson, ne parlava molto bene. Se lei mi trova qualcuno di cui ha parlato male Eriksson, la notizia sarebbe quella, insomma. Sì, Beckham, io lo ricordo anche che si infortunò abbastanza gravemente prima di un mondiale. E senza fare troppe storie, senza fare polemiche di nessun genere, si mise a lavorare per cercare di recuperare in vista del mondiale. L'ho sempre trovato un giocatore serio e tecnicamente valido. Poi che potesse essere a fine carriera, si può anche dare il beneficio del dubbio che possa avere anche ancora qualche stagione buona, insomma. Dico, economicamente non è costato molto al Milan, sì, sembrava una buona operazione, pur non essendo io milanista, ecco. Tutto qua. Tutto qua. No, ma bisogna sempre intendersi sul valore che si dà a un giocatore, cioè se lei dà retta al marketing e alla pressione mediatica, hanno cercato di spacciare Beckham, ma non oggi, sono 15 anni che lo spacciano, da quando è entrata in scena la Spice, non so come, che lo spacciano per un fuoriclasse che ha solcato tutte le epoche del calcio. Beckham è sempre stato un buon giocatore, a tratti eccellente, ma sempre con quest'aura di sopravvalutazione mostruosa dovuta per l'appunto agli effetti devastanti del marketing, che hanno nuociuto, a parer mio, innanzitutto a lui da un punto di vista tecnico, poi gli hanno talmente giovato sul piano economico a lui e magari alla gentile signora che tutto sommato se ne sono fatti una ragione. Come copia. Dicevo di questa notizia che arriva dalla Francia. Lilian Thuram ha detto no al presidente Sarkozy, che gli aveva proposto di diventare ministro della diversità nel suo governo. Lo ha rivelato lo stesso Thuram in un'intervista a Le Monde. Ho incontrato Sarkozy e il segretario generale dell'Eliseo, ha raccontato Thuram, che mi ha proposto di diventare ministro della diversità. Abbiamo avuto una lunga discussione, ma per ragioni evidenti non potevo che rifiutare. Al momento la politica è qualcosa di molto nobile che non tollera il prosepochismo, bisogna imparare le cose. È quello che faccio in questo momento, incontrando gente di idee diverse. Un giorno, forse. Questa è la risposta. Mi pare responsabile, no? E mi pare molto seria, molto matura, così come molto seria e molto matura, a parer mio, era l'offerta di Sarkozy, da parte, dicevo, di Thuram. Raffaele, in linea da Milano, buongiorno. Buongiorno, io volevo lanciare una provocazione sulla questione Beckham, visto che, come sembra probabile, debba andarsene. Visto che Ancelotti ci ha abituato a rivoluzioni tattiche, come ad esempio lo spostamento di Pirlo a vertice basso o l'utilizzo di Seedorf, diciamo, come centrocampista basso di qualità, non potrebbe essere Ronaldinho, so che è un'idea molto bizzarra, a prendere il posto di Beckham in quella area del campo, visto che... Raffaele, secondo qualità... le faccio io una controdomanda. Secondo lei che differenza c'è, una differenza di corsa tra Ronaldinho e Beckham? O... Sì, fondamentale, però io pensavo che... Ronaldinho col motore, però, allora... Sì, no? Diciamo, il grosso investimento fatto dal Milan, pensavo che il giocatore, diciamo che con più spirito di umiltà potrebbe, visto che là davanti fa fatica... Ma io non so se Ronaldinho avrebbe l'umiltà di calarsi, avrebbe la stessa umiltà di Beckham, di questo comincio già, cioè, intanto comincio a dubitare di quello. Il problema è che se anche avesse l'umiltà non avrebbe le attitudini, le caratteristiche di Beckham, ma nemmeno proprio l'idea base, no, di far correre la palla possibilmente di prima, di limitarsi alla giocata normale senza toccare la traversa. Insomma, non è la differenza che c'è tra un distributore di gioco e un giocoliere. Sicché un distributore può anche ogni tanto, se ha buone basi tecniche, non so, darsela da giocoliere, per provarci, ma il contrario è soltanto dannoso per la squadra. Io credo che Ancelotti ne abbia inventate tante, lei gli attribuisce giustamente qualità taumaturgiche, però esagerumalen, si dice dalle mie parti in Piemonte. Parlando di Genoa e Cagliari e del loro grande campionato, scrive Ale, forse vi state dimenticando della Fiorentina di Prandelli. No, adesso vediamo di non confondere le cose. La Fiorentina di Prandelli e dei Della Valle ha speso barcate di quattrini inenarrabili e in questi anni, giustamente, diciamo che ha investito. Ed era attesa a una stagione in cui i 37 punti attuali sono, direi, un fatturato abbastanza minimo in rapporto alle attese. Comunque è un fatturato che non corrisponde, credo, alle aspettative della vigilia. I 40 del Genoa e i 34 del Cagliari, giocando, abbia pazienza, meglio della Fiorentina di Prandelli, mi sembrano sbalorditivi. Dunque il parallelo proprio a parer mio non ci sta. Ivo da Milano, buongiorno. Sì, buongiorno. Dica. Le notizie che danno sui giornali a proposito di Cagliari, Genova, queste due realtà, in effetti sono, è da un mese che stanno, da un mese passo, cioè sempre in un crescendo, però la notizia principale che appare sul giornale, tutti diciamo, è comunque Juventus no, Cagliari sì. Juventus, cioè sono le grandi che sono sempre in prima pagina. È vero che fanno notizia loro, però loro fanno notizia 6 mesi. Per 2 mesi che facciano fare notizia a queste squadre qui che esibiscono un calcio giocato. E quindi lei è d'accordo con l'impostazione di oggi, Ivo? Cosa fanno i giornalisti? Cioè, cosa vedono? Non lo so, non so cosa vedono gli altri. E ciascuno usa le lenti che meglio crede. Io penso che, ma anche per una ragione, cioè, intanto per un dovere di cronaca, pare il mio, per una forma di rispetto e per un pizzico di cinismo, che è questo, dell'Inter, del Milan, della Juve e anche della Fiorentina e della Roma, si tornerà a parlare presto o se ne può parlare in qualsiasi giorno. Non è detto che di Genoa e Cagliari, cinicamente, ci siano molte altre occasioni di parlarne, perlomeno di parlarne in questi termini, sicché vede che magari c'è anche un pizzico di calcolo. Chiudiamo con Aldo, ha chiamato da Pescara, buongiorno. Buongiorno. Dica. Io volevo solamente segnalare che i due allenatori, Gasperini ed Allegri, sono stati allievi e giocatori del Pescara di Galeone. Sì, Aldo, l'abbiamo segnalato anche noi in una puntata recente, ci abbiamo aggiunto Giampaolo e Gasperini si è già anche chiamato fuori, detto tra noi, perché in un'intervista ha preso abbastanza le distanze dal calcio di Galeone. Quindi vede che, io la ringrazio della sua osservazione, ma diciamo che è leggermente superata dai fatti, anche dagli orari, per la verità, perché Peter Bescapè in regia mi fa segno che anche per oggi il tempo è scaduto, sicché ringrazio lui e Flavio Suardi in redazione, vi lascio al giornale radio.